need to see. I need to see what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah, yeah, yeah. She's my clickety click, I'll switch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stitch it. She's a neat trick, but she water makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stitch it. Yeah, yeah, yeah, don't yeah, you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. Oh, I stick yeah, yeah, a chick. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A stick chick, yeah, yeah, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got a crazy little chick, yeah, yeah. I don't you know she's slick. Oggi mercoledì 8 novembre 2017, ovviamente le 21:10 più o meno, almeno così segna l'orologio del Wombat nella Wombat Caverna, e quindi vi siete ritrovati tra capo e collo un'altra puntata di Slick Chick, appunto, sempre ovviamente sulla radio del Wombat. Prima di tutto vi ricordo i social Wombat per contattarci e rimanere aggiornati su tutto quello che succede, almeno riguardo alla nostra radio. Il sito prima di tutto wombat.noblogs.org, e poi, siccome i social ci fanno schifo, invece vi ricordo la casella di posta, ovvero posta@insiberia.net. Ormai basta, lo dovrete sapere, immagino che queste informazioni vi giungano assolutamente ridondanti, perché ve li ricordo tutti i giorni, cioè tutte le settimane, e fra l'altro così fanno anche gli altri fantastici DJ della nostra radio. Quindi, insomma, se ormai ancora non ve li siete imparati a memoria, vuol dire che avete bisogno di tatuarveli, e fatelo, perché comunque è un bel tatuaggio. Ma veniamo alla trasmissione di oggi, puntata romantica, perché parliamo di luna. In effetti era luna piena, se non sbaglio, direi proprio di sì, perché ieri tornando a casa non ho inciampato nei soliti due o tre ostacoli, ma più o meno riuscivo a deambulare abbastanza bene, il che vuol dire che il cielo era illuminato e effettivamente c'era anche un po' meno nuvole del solito, perché negli ultimi giorni avrete notato, almeno il cielo fiorentino era molto plumbeo e grigio e denso di nuvole. Se anche stasera le nuvole ci hanno graziato, potrete ammirare la luna. Vi consiglio di andare a farlo. Vi do il tempo. Avete fatto? Bene, a posto, l'avete vista, ok? E quindi parleremo di luna, ma luna non soltanto da un punto di vista romanticone, perché sì, lo vedremo. Molti hanno preso un po' questa scusa della luna per parlare poi delle solite romanticherie e cose con i cuoricini. Ma in realtà poi la luna può essere declinata in vari modi, ci sono vari motivi per cui ha un senso parlare di questa figura così strana eppure affascinante. Se ne parla da un punto di vista proprio astronomico, perché di fatto la luna è un qualcosa a cui noi, a un certo punto, l'essere umano pare che è arrivato. Certo, non è ancora detto, molti complottisti sostengono che non è vero niente, ma altri invece sostengono che sì, l'essere umano è riuscito ad andarci, si è fatto una bella camminatina e ha visto più o meno com'era fatta, almeno in parte. Ma poi si può parlare di luna anche da un punto di vista di influenza che ha sull'essere umano proprio a livello anatomico, a livello fisiologico. Si parla che appunto si dice che la luna influenzi le maree e influenzi anche l'essere umano, soprattutto la donna, nei suoi vari cicli. Queste cose a noi non interessano, perché si potrebbe andare a parare su un qualcosa di fricchettone, quindi noi ce ne teniamo abbastanza lontani, non me ne frega niente di parlarvi di queste cose. E infatti il primo brano che abbiamo ascoltato era tutt'altro che fricchettone, perché era dei Cramps, li avete riconosciuti sicuramente, che urlavano pure un po' perché mi ero dimenticata i volumi un po' altini, e cantavano Rock on the Moon, un brano tratto da Songs the Lord Taught Us del 1980, ma che in realtà originariamente era di Jimmy Stewart del 1958. Tra l'altro, se volete ascoltarvi l'originale, auguri, perché è veramente difficile da trovare. Io non ci sono riuscita, quindi vi ho fatto sentire la cover dei Cramps, che d'altronde mi piace e mi fa sempre bene farvela ascoltare. Ma proseguiamo velocemente per ascoltarci il prossimo pezzo, che però ha bisogno di un incipit. Il prossimo pezzo riguarda sì la luna, ma è un po' una bieca scusa per parlare di un personaggione, un musicista di cui in realtà abbiamo già fatto sentire pezzi in questa trasmissione. Non mi ricordo quanti, ma sicuramente almeno uno ricordo di avervelo passato, e si tratta di Fred Buscaglione, ovvero Ferdinando Buscaglione, questo era il suo vero nome, insomma non è che aveva scelto un nome d'arte tanto strano, nato a Torino, come insomma si sa, da una famiglia originaria di un paesino, in realtà della provincia di Biella, comunque piemontese sempre. Il padre era pittore edile, si dice così, e la madre portinaia, e occasionalmente in realtà la madre faceva anche l'insegnante di pianoforte, quindi insomma in realtà iniziò a bazzicare presto la musica il nostro Fred. A 11 anni infatti fu ammesso al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, però in realtà questa cosa, come vedremo, Fred Buscaglione non era affatto un tipo da conservatorio, fece 3 anni di scuola e poi se ne andò, un po' perché non era tagliato per la musica classica, e come sappiamo chi ha provato a affacciarsi in conservatorio sa bene che la musica classica imperversa nei nostri conservatori italiani al tempo ma anche adesso. E insomma è anche difficile fare qualcos'altro dentro quei angusti laboratori, ma un po' anche perché non avevano una lira, non avevano pochi soldi in famiglia e quindi non si poteva permettere Buscaglione di proseguire gli studi. Quindi cercò lavoro in vari impieghi, tra fattorino, addirittura anche apprendista odontotecnico, insomma ne fece un bel po'. E, da adolescente iniziò a esibirsi nei locali notturni, perché in realtà comunque sia la musica non gli era affatto passata, e essenzialmente come cantante jazz, ma anche come polistrumentista, perché sapeva suonare un sacco di strumenti, dal contrabbasso, il violino, il pianoforte, tromba, eccetera. Poi arrivò la Seconda Guerra Mondiale, ahimè, e come praticamente tutti venne chiamato alle armi e distaccato in Sardegna, dove divenne abbastanza noto, almeno tra le truppe, perché organizzava spettacoli appunto per intrattenere le truppe, come fra l'altro era abbastanza di moda al momento. In Sardegna quindi è fatto prigioniero dagli americani, che però anche loro a un certo punto si lasciano in qualche modo conquistare dalla musicalità di Buscaglione e dal suo probabilmente anche carattere abbastanza divertente e di intrattenimento, potremmo dire. Quindi lo lasciano cantare e suonare per loro, nonostante fosse detenuto, e poi alla fine decidono di inserirlo all'interno di questa orchestra della radio alleata di Cagliari, un quintetto che si chiamava Quintetto Aster, cioè quintetto con Buscaglione, perché prima era un quartetto. E, quindi essenzialmente da una parte continuò a fare musica, che poi era quello che gli interessava nonostante la guerra, e però venne a contatto e si ritrovò a sperimentare un po' i nuovi ritmi e le nuove sonorità provenienti dagli Stati Uniti, cosa che in Italia non era affatto semplice, ma d'altra parte basta studiare un minimo di storia della musica, ma non solo, certo tipo di musica è stato portato, soprattutto lo swing penso, è stato portato in Italia banalmente dalle truppe americane al momento dello sbarco in Sicilia, e questo portò diversi nuovi scenari, e d'altra parte probabilmente lo swing era proprio la musica giusta che serviva in quel momento, perlomeno evidentemente è andata così. Finisce la guerra, Buscaglione rientra a Torino e ricomincia di nuovo a suonare, cioè continua esattamente quello che ha fatto fino a quel momento, in varie orchestre, e poi alla fine fonda un proprio gruppo che si chiamava gli Asternovas, ce l'aveva con gli Astri, già questo è un indizio. Iniziò quindi una vita fatta di spettacoli, tour, lavori in locali notturni un po' in tutta Europa. E nel 1946 Buscaglione aveva ricominciato a frequentare quello che era un suo storico amico, Leo Chiosso, e con il quale inizia a comporre canzoni, diventa poi di fatto il suo inseparabile amico anche di composizione, e le canzoni più famose di Buscaglione sono state scritte proprio insieme a Leo Chiosso. Il rapporto tra i due è praticamente simbiotico, vivono proprio uno davanti all'altro, anche proprio fisicamente in due appartamenti di rimpetto, e trascorrevano giorni e notti a canticchiare, chiacchierare, scambiarsi idee, battute, a comporre. Queste canzoni che componevano erano un po' strampalate, diciamo, per l'epoca, ma direi anche non solo per l'epoca, e parlavano di questo immaginario derivato palesemente dall'immaginario americano dell'epoca, perché parlavano di questi bulli e pupe, chiamiamoli così, o come l'hanno portati poi, li hanno italianizzati, quindi le donne bellissime, spietate in qualche maniera, e duri, cattivissimi con i loro nemici, ma sempre in balia di queste donne, di queste femme fatale, e soprattutto, ancor più delle donne, in balia dell'alcol. Fred Buscaglione decise che quello era proprio il suo personaggio, ci si calò tantissimo, e anche fisicamente si fece crescere un paio di baffetti, e vestiva questo doppio petto gessato, un cappello a larghe falde, che poi è un po' quello con cui lo ricordiamo anche adesso, che era ispirato ai divi del cinema del momento, da Clark Gable e gli altri, e comunque in generale all'immaginario del gangster americano. Ma tutto ciò che attualmente adesso ci sembra bellissimo e lo è stato per decenni, all'epoca non era proprio così accettatissimo, tant'è che Buscaglione faticò tantissimo a trovare una casa discografica che accettasse di incidere per lui quelle canzoni che all'epoca venivano considerate trasgressive, sicuramente inconsuete. E quindi alla fine poi in realtà, grazie all'intercessione di un amico, riesce a incidere le sue prime canzoni, e da lì in poi di fatto queste canzoni, sebbene osteggiate dalla morale dall'alto, diciamo, in realtà poi alla gente piacevano un sacco e quindi ebbe un enorme successo, e come sappiamo i soldi poi convincono molto facilmente i discografici, e quindi da lì in poi il successo fu abbastanza spianato. Nel 1949, quindi sempre più o meno in quegli anni, a Lugano, in un cabaret, mentre si esibiva, conobbe Buscaglione un'artista maghrebina, Fatima Ben Mbarek, conosciuta con il nome d'arte di Fatima Robbins, che si stava esibendo nello stesso locale come acrobata e contorsionista insieme al padre e alla sorella. Fred impazzisce, si innamora tantissimo, gli fa una corte serrata, ma il padre non era proprio assolutamente dell'idea, e Buscaglione, nonostante cercò in tutti i modi di persuaderlo, finì per organizzare insieme a lei una romantica fuga in una notte che pare fosse una notte dove nevicava, tempeste di neve, e loro scapparono su una slitta trainata da un cavallo, cioè un'immagine che io vorrei ricordarmi in eterno. Questi due bizzarri personaggi, ricordo lui una specie di gangster torinese e lei contorsionista e acrobata marocchina, si sposano nel 1953 in chiesa, dopo che lei si converte al cattolicesimo. Penso che fosse altamente improbabile e impossibile fare diversamente. E non che adesso sia parecchio meglio, ma vabbè. E lei iniziò con il marito una carriera come cantante. I due iniziano a incidere anche dei pezzi insieme. E vabbè, rapporto burrascoso, come d'altronde i loro personaggi non potevano lasciar che fosse diversamente. E quindi liti, riappacificazioni, insomma un po' di tutto. Poi alla fine, soprattutto lite dovute soprattutto pare alla gelosia di Fatima, e poi alla fine i due si lasciano, si separano definitivamente, e anche se poi si parla di un probabile riavvicinamento l'anno dopo, nel 1960, a Firenze proprio, e lì pare che ci fu un po' un ritorno di fiamma, giravano voci che si sarebbero forse rimessi insieme, ma in realtà il destino, come si dice, macchinò contro di loro, perché in quegli anni appunto Buscaglione ormai era uno degli uomini più richiesti, degli uomini di spettacolo più richiesti come cantanti, ma anche al cinema, nelle pubblicità, alla televisione, insomma. E lui girava spesso in su e giù con questa auto americana vistosissima, o non poteva essere diversamente, una Ford Thunderbird che lui chiamava criminalmente bella, come fra l'altro il titolo di una canzone sua. E fu proprio questa automobile che lo vide morire in un incidente in macchina all'alba del 3 febbraio del 1960. Fred Buscaglione aveva soltanto 38 anni e lui stava rientrando all'hotel Rivoli a Roma dopo una notte in cui aveva lavorato in un night. E questa Ford Thunderbird color lilla, non poteva appunto che essere color lilla o comunque pastello, giunse all'incrocio tra via Paesiello e viale Rossini ai Parioli a Roma, e si scontrò con un camion carico di porfido in realtà veramente un fumetto, oppure non lo so, un noir, comunque qualcosa che potrebbe essere tratto da una canzone proprio di Buscaglione. E provarono sia l'autista del carico che altri, un metronotte, un passante, insomma altri che erano arrivati sul posto, provarono a soccorrerlo, a rianimarlo, riuscirono a fermare un autobus, ci caricarono sopra il cantante che però giunse troppo tardi all'ospedale e morì e se ne andò in questa maniera. Questa la storia di Buscaglione, detta veramente in maniera sintetica e brutale e tirata via, ci sarebbe da dire ben di più, ma tant'è, non abbiamo così tanto tempo per poterla approfondire, allora intanto ci ascoltiamo la scusa che ci ha fatto parlare di Buscaglione, ovvero Guarda che luna. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna. E un giorno vi metterò Buscaglione in vinile, lo farò, ve lo prometto, non adesso e non con Guarda che luna, perché non ce l'ho, devo dire, non ce l'ho. Però ho tanti altri bei pezzi di Buscaglione, arriveranno. E adesso, dopo aver parlato di, in realtà, Buscaglione più che della luna, parliamo invece proprio della luna. La luna nera in particolare, che oltre a essere un film di Louis Malle, tra l'altro, è un evento astronomico alquanto interessante che si ripete ogni 32 mesi. In alcune parti del mondo, chiaramente dipende dove siete, ma in alcune parti del mondo è prevista la seconda luna nuova del mese, appunto, quindi ce ne sono due, non ce n'è una sola di luna nuova, ma ogni 32 mesi ce ne sono due. E questa luna nuova, questa seconda luna nuova, viene chiamata luna nera, appunto in inglese black moon. Di fatto è l'entrata della luna nel cono d'ombra della Terra, che normalmente questo evento accade una volta al mese, ma a volte, in particolare ogni 32 mesi, avviene due volte. Diciamo che questa qui viene chiamata, ad esempio, oltre a questo fenomeno, c'è anche l'opposto, ovvero ogni tanto può capitare che si verifichi una seconda luna piena nello stesso mese, durante lo stesso mese. Ciò si chiama luna blu o blue moon. quindi insomma diciamo che il famoso Blue Moon, Black Moon che sentite dire nelle canzoni, così, beh, poi spesso parlano di tutt'altro le canzoni, ma in realtà almeno inizialmente si dovrebbero, potrebbero riferire a questo fenomeno. È di fatto la luna nera un novilunio, appunto, e quindi il satellite della Terra, la Luna, anche se è alto nel cielo, in realtà non è visibile in qualche maniera, scompare. E quindi, siccome scompare, anche se ci dovrebbe essere, questa cosa qua viene interpretata in vari modi. Rappresenta un momento di grande cambiamento, ma anche lati oscuri, pulsioni inconsce dell'animo umano, insomma, tanto da arrivare anche a profezie di apocalisse, sventure e quant'altro. Ma vedremo che la luna nera non è poi la peggiore tra le colorazioni che ci possono essere della luna. In realtà la luna rossa, ad esempio, è molto peggio. Tra l'altro, invece, secondo le prime versioni della Bibbia ebraica, Lilith, che poi vuol dire in ebraico proprio luna nera, fu la prima compagna di Abramo e venne ripudiata e scacciata dall'Eden perché andò contro il volere divino. Non ne so molto di più, ma genericamente non gli piaceva, andò contro, andò così, si ribellò. E quindi ascoltiamoci a questo punto Black Moon, per l'appunto, dei Deftones. L'album è Besides and Rarities del 2005, da cui dedurrete che si tratta un po' di un pezzo raro, non negli album consueti, e in questo brano c'è anche Be Real dei Cypress Hill, quindi è un featuring interessante, Deftones insieme a Cypress Hill. Stopping that shit. If you run up, guess what? I'm stopping that shit. Still can't figure out nothing to find flaws. Take a pause, better recognize bodies on the lawn. See such, might touch. Call Mr. Clutch. Hold the Dutch with a bunch of weed. Never have enough. Hold steady for the lyrical medley with deadly with rhymes. In alphabetical order or one at a time. Should we crank it up? Pump up the truth while you're fearing it. Looking at the youth, what you gonna do? They're hearing it. Don't hate your fate. Still in the air looking at. You made me twist you up. You're all cooking now. Take a step back. Sucker, you get spit on. Payback coming from all of those you shit on. What you gonna do? I got mad crew. You on the camera, guess what? I see you. What you gonna do? I got mad crew. You on the camera, bitch, what? I see you. Check the mic cord every place I roam. And all the bullshit cease when I pull my chrome. It's automatic, drastic the way I flow. Yo, incredible and unforgettable. I make it bounce to the rhythm. What counts? I hit them straight ounce of venom and great amounts of wisdom. I'm the psycho. For the prey, all the way out in the boondocks with the AK on. What you gonna do? I got mad crew. You on the camera? Guess what? I see you. What you gonna do? I got mad crew. You on the camera? Bitch, what? I see you. Getting the plot, taking time, running out. You can't hide from the gag, picking punk. Hit the floor, time that even the score people will be hearing about. The way I'm boring folklore, cause MCs are made to pick me in the world, rip them and roll them up with me. That's flip them, I got the need. Say what? You want something to pump up? Jump up, just like a record I cut up. Try to nut up, think it's funny, I wrap your ass up like a mummy with rhymes. Suckers, they run from me, wanna get away. There's a better way, you heard? Tell me the word, the kill's coming with poison, burns and bold cast. Suckers be leaving out on the slab. Show me what you wanna do. I got mad crew. You on the camera, guess what? I see you. What you wanna do? I got mad crew. You on the camera, bitch, what? I see you. What you gonna do? I got mad crew. You on the camera, guess what? I see you. What you gonna do? I got mad crew. You on the camera, bitch, what? I see you. così. Oggi mi fa un po' di problemi, questo computer si lamenta, mi dà delle cose strane. Speriamo di arrivare in fondo, chissà, sarà la luna nera. Fly Me to the Moon, il prossimo pezzo che ci andiamo a ascoltare, di Frank Sinatra in compagnia di Count Basie. Direi Count Basie in compagnia di Frank Sinatra, che ne dite? In inglese, Fammi volare fino alla luna. È un brano scritto da Bert Howard nel 1954, che in realtà aveva come titolo In Other Words, ovvero in altre parole. Ma la canzone, siccome la prima riga faceva Fly Me to the Moon, divenne poi il titolo, cambiò in questo, perché evidentemente tutti la canticchiamano così e dicevano: ma dai, ma come si fa qua con la canzone? Ah, Fly Me to the Moon. Quindi la canzone diventò Fly Me to the Moon e gli editori proprio gli cambiarono il titolo ufficialmente. Frank Sinatra l'ha registrata nel 1964, appunto abbiamo visto non era sua la canzone, non era la versione originaria, ma lui la registrò nel 64 nell'album It Might As Well Be Swing, insieme appunto a Count Basie. E peraltro questa è un po' la versione più nota, non so se l'ha venuta meglio, forse no, però insomma sicuramente quella più famosa. E questo brano è stato registrato in maniera abbastanza, diciamo, di pari passo con il programma spaziale dell'Apollo, della NASA. Quindi era appunto il 64, insomma, c'eravamo, era lì. E pare che appunto addirittura una copia di questa canzone fu fatta suonare sull'Apollo 10 durante la missione che orbitava intorno alla Luna, e diventò la prima canzone, il primo pezzo musicale ascoltato sulla Luna, proprio sopra il terreno lunare, perché fu fatto suonare da come si chiamano, i Walkman, dai, quella cosa vintage, i mangianastri, no, insomma, i Walkman, dai, si chiamano Walkman, perché c'era uno degli astronauti, Buzz Aldrin, che durante la missione lunare dell'Apollo 11 se la portò dietro in questo Walkman e si fece una bella passeggiata sopra la Luna facendo risuonare nell'atmosfera queste note. E non so, io probabilmente non avrei scelto proprio quella, ma è lui, andò così, che si deve fare. D'altra parte faceva parte del programma insomma, era un astronauta della NASA in piena guerra fredda, ma che volete, cioè, forse è già andata bene così. Quindi ascoltiamocela, Fly Me to the Moon di Frank Sinatra, ma soprattutto insieme a Count Basie. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, vi ho anticipato di una luna ancora più terribile, ancora più nefasta della luna nera, che in realtà sì, è la luna rossa, però molto spesso viene rappresentata come rosa, la luna rosa, perché in realtà quella che poi vediamo all'inizio è rosa e poi diventa sempre più rossa, diventa poi, perché di fatto stiamo parlando di un'eclissi. Durante l'eclissi la porzione di luna che vediamo da bianca passa a rosa, e cioè prima gialla, poi rosa e poi rosso sangue, sempre in maniera sempre crescente, sempre più terribile. E ovviamente non poteva che diventare un simbolo di apocalisse in molte culture. Ma Pink Moon, la luna rosa, è anche probabilmente la canzone più famosa di Nick Drake negli Stati Uniti. Successo fra l'altro questo dovuto in larga parte, pare, che al fatto che a un certo punto nel 1999, quindi parecchio tempo dopo che Nick Drake l'aveva fatta uscire, fu usata in uno spot commerciale della Volkswagen per pubblicizzare, attenzione, una cabrio su cui dei giovani se ne vanno tutti belli contenti a una festa. Il che è abbastanza buffo, dato il carattere, come dire, ben poco allegrotto di Nick Drake in generale, e anche in questo pezzo, insomma, lo sentirete. Cioè, io non lo so voi, ma io non è che ce lo vedo tanto su una cabrio a cantare Pink Moon con la faccia triste. Insomma, proprio l'anima della festa, ecco. Cioè, tutti vorremmo andare a una festa su una cabrio con Nick Drake che ci canta Pink Moon. Non a caso, peraltro, questo fu il suo ultimo album e Nick Drake morì 2 anni dopo per un'overdose di antidepressivi. E la storia, la triste storia di Nick Drake, l'abbiamo già raccontata in una tristissima puntata di circa un anno fa, che riguardava l'autunno, quindi se non ve la ricordate andate a risentirvela, disponibile sempre nei podcast su Radio Wombat, la voce Slick Chick ovviamente, e questa invece appunto è Pink Moon. I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you all on the Pink Moon. Pink Moon. Saltellante, vero? E il prossimo pezzo invece ve lo dico subito, lo dedico alle Sorelle Trapasso, gruppo musicale nuovo che si sta approcciando ora alla scena musicale fiorentina, ne sentirete parlare prossimamente, vi do questa anteprima, ricordatevi Sorelle Trapasso, ricordatevi questa cosa. E lo dedico a loro ed è in realtà il brano è un po' poco attinente con loro, ma vabbè. Comunque si tratta di Moon River, brano strafamoso, se non ve lo ricordate appena sentite il primo intervallo con cui inizia proprio lo riconoscete per forza. È un brano che è stato composto da Johnny Mercer e Harry Mancini nel lontano 1961. È diventato famoso per aver fatto parte, in realtà appunto essere nato proprio come colonna musica del film Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn. Se non sapete di cosa sto parlando fate schifo, ma in ogni caso potrete rinfrescarvi la memoria con Coming Song, la trasmissione nuova di zecca sul cinema appena cominciata sempre su questa radio. Mercer e Mancini scrissero questa canzone proprio per questo film e appositamente perché la Hepburn la cantasse. Ora, la Catherine Hepburn non è che ce l'ha sta, cioè brava, è un'attrice bravissima, non è che ce l'ha sta voce meravigliosa, non c'ha un'estensione incredibile, quindi loro proprio gliela cucirono addosso e la scrissero proprio perché fosse adatta a essere cantata da lei, cosa che peraltro nei retroscena della musica, non soltanto quella da film e non soltanto la musica scritta per le attrici, ma anche quella scritta per i cantanti, le cantanti, in realtà avviene spessissimo, vi dico questo segreto, non lo dite a nessuno. E Moon River in realtà è il titolo della canzone, è un vero fiume in Georgia, dove uno dei due attori, Johnny Mercer, era cresciuto. La sua casa stava proprio davanti a questo fiume e lui si ricordava, insomma, ci aveva molti ricordi legati a questo posto, come spesso succede con i luoghi che fanno parte della nostra infanzia. E al tempo però in realtà il fiume si chiamava come Back River, ma fu rinominato poi in seguito Moon River proprio in onore di questa canzone. E fra l'altro invece la casa di Johnny Mercer, che stava appunto lungo il fiume, divenne conosciuta, cioè tutti iniziarono a chiamarla The Moon River House. Questa versione che ci ascoltiamo non è la più famosa, non è quella cantata da Catherine Hepburn, non è quella cantata dagli altri miliardi di famosissimi cantanti e musicisti che hanno rifatta, ma è la versione stranissima, ma secondo me molto bella, di Morrissey. Blue river, wider than a mile, crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to. So sure the world deserves us. We're after the same rainbows in. How come it's just around just around the bend. Blue river, wider than a mile, So che credevate che vi mettessi i Pink Floyd, i Creedence Clearwater e tutte quelle robe là. No, c'ho dei pezzi abbastanza strani. Tra l'altro, in realtà, della Luna hanno parlato veramente cani e porci e ne hanno cantato, diciamo, in tutti i modi possibili e immaginabili. Il prossimo che vi faccio ascoltare ha molta attinenza con quanto dicevamo prima riguardo a Frank Sinatra e Count Basie fatti volare sulla Luna in maniera abbastanza letterale, perché quando alla NASA lanciarono il programma Voyager, quel programma che era alla ricerca di nuove forme di vita e civiltà, decisero, un grande classico, peraltro insomma sviluppato nella fantascienza benissimo, ma non solo nella fantascienza, come vedremo, pensarono di costruire questo campionario di tutto quanto di più bello e meraviglioso creato dall'essere umano, e quindi mandarono questo campionario nello spazio, quello che poi venne chiamato, ed è tuttora chiamato, il Golden Record, che poi contiene suoni, immagini, musica, saluti in tutte le lingue note e quelle meno note. All'interno della categoria musica ci sono un po' vari, tra cui Bach, Beethoven, Mozart, eccetera. E l'unico che non è, che non fa parte della categoria, diciamo, di musica classica o quella tradizionale, è quello che poi viene considerato il padre fondatore del rock and roll, ovvero Chuck Berry. Quindi, oltre a Frank Sinatra, secondo me in maniera parecchio più meritata, troviamo nello spazio anche Chuck Berry, abbiamo buttato anche lui. E Chuck Berry è stato buttato nello spazio attraverso la sua Johnny B. Goode. Tra l'altro anche qui, citazioni su citazioni, DeLorean, vabbè, potremmo andare avanti, ma ci dobbiamo fermare qui. E questa è la lettera che Chuck Berry ricevette per il suo 60° compleanno dai due membri del Voyager Interstellar Record Committee, ovvero quelli che si erano di fatto preoccupati di decidere chi doveva andare, chi doveva rappresentare questo campionario del meglio della cultura umana. E gli mandarono questa lettera e Chuck Berry si vide recapitare questa lettera che diceva pressappoco così: quando dicono che la tua musica vivrà per sempre, in genere si può dire che esagerano, ma Johnny B. Goode è nelle registrazioni del Voyager a 2 miliardi di chilometri dalla Terra, direzione stelle. Queste registrazioni vivranno almeno 1 miliardo di anni o più. Buon 60° compleanno, con l'ammirazione per la musica che avete dato a questo mondo, go Johnny go, e via via via. Questa fu la lettera. Noi del Wombat non siamo banali come alla NASA e invece di Johnny B. Goode ci ascoltiamo un altro singolo molto molto bello, secondo me forse anche di più, di Chuck Berry, il B-side, lato B di You Can Catch Me del 1956, Havana Moon. Havana Moon. Juggle rum, me stand and wait for boat to come. It's long the night, it's quiet the dark. The boat she late since 12 o'clock. Me watch the tide easing in. It's low the moon, but high the wind. Havana moon, Havana. Me all alone, me open the rum. It's long the wait for boat to come. American girl, come back to me. We'll sail away across the sea. We'll dock in New York, the buildings high. We find a home up in the sky. Havana moon, Havana. Moon. Me still alone, me sip on the rum. Me wonder when the boat she come to bring me love. Ow! Sweet little thing, she rock and roll. She dance and sing, she hold me tight. She touch me lips, me eyes they close. Me heart she flip. Havana moon, Havana moon. But still alone, me drinking the rum. Begin to think the boat no come. American girl, she tell a lie. She say till then, she mean goodbye. Havana moon, Havana moon. Me lay down alone, me fall asleep, the boat she come, the girl she look, till come the dawn, she weep and cry, return for home, the whistle blow, me open me eyes, was bright the sun, was blue the skies, me grab me shoes, me jump and run, me see the boat head for horizon. Havana moon is gone the rum. The boat she sail, me love she gone. Havana moon, Havana moon. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above, when love is far away too. Till it comes true, that you love me as I. Thank you. E sulle note di Gloria Gaynor con How High the Moon, e vi leggo una delle iniziative che ci sono arrivate e che di cui vi parleremo poi più approfonditamente anche nei prossimi mesi, perché non scade a breve, che è la lotteria No Inch No Aero, un'iniziativa piuttosto fantasiosa, ma d'altra parte come si deve fare? Ci si deve inventare sempre nuovi modi nell'autogestione. È un'iniziativa fatta dal presidio No Inch No Aeroporto, No Aero, detto così, e che è una lotteria per trovare chiaramente un autofinanziamento per tutte, per sostenere tutte le spese e le iniziative del comitato e presidio No Inch No Aero. E più o meno la questione è questa: è una lotteria dove in premio ci sono vari prodotti della terra a chilometro zero messi in palio da aziende del territorio e anche idee fantasiose di attivisti e solidali. Vedrete tutto e potrete vedere la lunga lista di premi, dove dentro c'è veramente di tutto, sul sito pianacontronocività.noblogs.org. Lì potete capire sia quali sono i premi, e vi ripeto, ce ne sono delle belle, sia anche sapere dove si possono acquistare i biglietti di questa lotteria. E più che altro vi ricordo che avete ancora un bel po' di tempo, inizia ora la raccolta della lotteria, perché poi l'estrazione dei numeri sarà il 14 gennaio 2018, con una festa chiaramente alla Limonaia di Villa Montalvo di Campi Bisenzio. Quindi insomma, poi avremo modo di riparlarne nei prossimi mesi, via via, insomma ve lo ricorderemo non poco ai microfoni di questa radio, ma intanto ve l'ho buttata lì, intanto iniziate a guardare. Questa era appunto Gloria Gaynor con How High the Moon, dall'album Experience Gloria Gaynor del 1975. E How High the Moon è un jazz standard composto da Morgan Lewis, con il testo invece scritto dall'attrice Nancy Hamilton. E questo brano era stato pubblicato nella versione originale, ovviamente, nel 1940, e è entrato a far parte del musical di Broadway Through for the Show, e che veniva cantato in questo musical da Alfred Drake e Francis Comstock. Ma in realtà la versione più vecchia registrata di questo pezzo fu proprio quella di Benny Goodman and His Orchestra, che appunto dello stesso anno della pubblicazione, quindi del 7 febbraio del 1940. In questo brano la luna è un po' vista come emblema della lontananza, dell'irraggiungibile e di un'ambizione a raggiungere questo impossibile, questo irraggiungibile appunto. Ma veniamo al prossimo brano, che è di un altro assolutamente pezzo da 90 della musica di sempre, ovvero di Ella Fitzgerald, scusate se è poco. Sempre che il computer mi aiuti, sì, mi aiuta. Ella Fitzgerald e Bill Doggett, in questo caso con No Moon At All, registrata per la prima volta dal King Cole Trio il 3 novembre del 1947. Si tratta di un altro standard jazz. E questa volta invece non si tratta di lune rosse, rosa, nere o quant'altro, ma è una notte in cui proprio la luna non c'è. Proprio assenza totale di luna, anche le lucciole hanno spento le loro luci, i cani non osano abbaiare. E nelle intenzioni dei compositori, però, la mancanza di luna qui è propizia. Nell'oscurità si trovano ispirazione e in qualche modo anche un po' una sorta di riparo. È una lettura, secondo me, niente affatto banale, molto intrigante, ovviamente declinata meravigliosamente da Ella Fitzgerald. No moon at all, what a night, even even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to bark, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. E dopo questo stupendo cantare di Ella Fitzgerald, difficile andare avanti, ma dobbiamo farlo perché ho ancora diverse cartucce, ho diverse ancora cose da farvi ascoltare. E in particolare i Sonic Youth con Death Valley 69, dal secondo album dei Sonic Youth, Bad Moon Rising, del 1985. Ovviamente lo spunto ce lo dà proprio il titolo dell'album, Bad Moon Rising, che di fatto è un album come un po' tutti quelli dei Sonic Youth, ma questo in particolare è un album che gira intorno a un po' il dark side, il lato oscuro dell'America. Oltre al lato oscuro della luna c'è anche e soprattutto un dark side dell'America. E si fa riferimento a varie ossessioni, pazzie, follie. Charles Manson, tra l'altro, viene citato, satanismo, insomma, varie cose. In questo pezzo, Death Valley 69, c'è, tra l'altro, oltre ad averlo scritto insieme a Sonic Youth, c'è anche l'impressionante voce di Lydia Lunch. E questo è quanto ora ve lo ascolterete, pezzo del 1985, non mi ricordo se ve l'avevo già detto. Bad Moon Rising ovviamente è anche il, birichini me ne sarete accorti, è ovviamente anche il pezzo dei Creedence Clearwater Revival, ma io mi guardo bene da farvelo ascoltare, e quindi non vi preoccupate, ve l'ho già detto, non l'avrete. E tra l'altro il sorgere della luna piena, perché di questo si parla, Bad Moon Rising, è un po' quello, è una luna cattiva che sorge, bad in questo senso, è un sorgere della luna piena che spesso è associato ovviamente ai licantropi o anche a raptus di follia, crisi, impazzimenti vari, e quindi direi che ottimi rappresentanti di tutto ciò sono i Sonic Youth. We'll be right back. I Sonic Youth insieme a Little Lunch, bellissimi secondo me. E il prossimo pezzo che vi faccio ascoltare è altrettanto bello, se non di più, quindi ve lo dico di già, tanto non avete fretta, no? Che avete da fa? Mettetevi comodi e comode, perché dura ben 11 minuti quasi, quindi insomma prendetevela con calma, anche perché è un pezzo da ascoltare per bene, a modino. Sono i Television con Marky Moon, l'album è omonimo, Marky Moon del 1977, e sì, stralunatissimo album, stralunatissimo pezzo, come la voce di Tom Verlaine, il cantante di Television. E, è strutturato questo pezzo come quasi una storia, un racconto. La canzone inizia con un certo climax, cioè viene costruito un riff, lo sentirete, qualcosa che inizia e piano piano scompare per poi ritornare alla fine, come un ritornare alla normalità della vita di tutti i giorni da cui eravamo partiti. E la musica del Television di fatto definì un po' tutta quella estetica della New Wave che venne negli anni poi a venire, dagli anni 80 in poi, almeno così pensano in molti, ma proprio in molti, e in molti ne sono entusiasti peraltro di questo disco e di questo pezzo in particolare. Veniva un po' alterata la canzone rock che era stata fino a quel momento, e anche il punk di quel momento. Ad esempio, il punk aveva spazzato via tutti i riff di chitarra odiosissimi, e io sempre grata in eterno gliene sarò, e in qualche modo i Television li ributtano, questi riff li riprendono, ma per buttarci dentro qualcosa di completamente diverso. Cioè la chitarra elettrica in mano ai Television è qualcosa di diversissimo da quello che si era sentito fino a quel momento. Di fatto diventa una chitarra ossessiva, disturbata, ma non quanto disturbante come era quella del punk fino al 77. Era qualcosa di più nevrotica, di più sottile. E vabbè, anche in quanto ossessiva, insomma, poi diventa ripetitiva e ti rimane in testa e ti scava un tarlo addosso. E quindi niente, i Television furono un po' il prodotto di quel punk che era arrivato fino a quel momento, ma si riallacciarono un po' anche a quello che c'era stato prima, in primis probabilmente Velvet Underground, e fusero un po' entrambe le attitudini. E quello che ne viene fuori è qualcosa, secondo me, di molto oscuro, ma molto molto intenso. E io ve li faccio ascoltare, anche perché non posso dire veramente più di questo, anche perché secondo me parlare della musica in quanto musica è sempre brutto e stupido e poco funzionale. Quindi ve li faccio ascoltare dall'album Marky Moon del 1977, appunto, i Television, Marky Moon. We'll be right back. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Boy, is this a neat way to travel. Isn't it great? Dum-da-dum-dum-dum. Dum-da-dum-dum-dum. By the Light of the Silver Moon, la sua interpretazione di un classicone del 1909. E prima di Fassweller avete sentito una piccola clip I Was Strolling on the Moon One Day dei due astronauti Gene Cernan e Jack Smith, che astronauti dell'Apollo 17, che canticchiavano mentre camminavano, facevano una passeggiata sopra la superficie lunare durante l'ultima missione, appunto, sopra la Luna, appunto, l'ultima missione Apollo. E vi leggo quelli che sono gli appuntamenti arrivati alla Wombat Agenda di questa settimana. Non c'è tutto sicuramente, perché alcune cose mancano, ma ce le dovete spedire, e se non siete efficienti poi noi non le leggiamo. Quelle arrivate alle mie orecchie, alle orecchie wombattose, sono le seguenti. Iniziamo da venerdì 10 novembre. Al Next Emerson Exchange, a serata Exchange Cypher, la consueta Serata dedicata alla breakdance, breaking, soul, funky, disco, rap e tutto quanto può servire come scusa per fare quattro salti, questa volta in versione ridotta dalle 19 alle 21, quindi mi raccomando siate puntuali perché sennò trovate chiuso. Invece all'occupazione di Viale Corsica dalle 17.30, presentazione del libro Esiste un mondo a venire, con il punto interrogativo, ebbene sì, questo è il titolo, di Deborah Danoschi, Eduardo Viveiros de Castro, e presentato dai compagni che hanno curato l'edizione italiana. Ve ne leggo solo un pezzettino dell'introduzione. I cambiamenti climatici e le estinzioni biologiche sono solo alcuni dei parametri che oggi stanno andando fuori scala, mettendo in scacco l'umanità, determinando una proliferazione discorsiva senza precedenti intorno all'idea della fine. Dal pensiero all'espressione artistica, una fioritura disforica di mitologie dell'apocalisse infrange ogni ottimismo umanista e prometeismo dello sviluppo. E questo è il libro, poi a seguire alle 20.30 una pericena e alle 21.30 concerto hip hop con Young Rascals da Lucca e Plankton Punk, Plankton Punk Hardcore da Firenze. Questa è l'occupazione di Viale Corsica 81. Invece il giorno seguente, sabato 11 novembre, sempre al Cessano Ex Emerson, una serata a cura del collettivo anarchico e libertario fiorentino, dalle ore 18 incontro con il collettivo del Mutuo Soccorso e Libertà d'Espressione di Bologna. Alle 20 la cena, alle 21.30 la presentazione Grande Realtà Immaginaria con l'autore Stefano Bettini, aka Il Generale. E dalle 23 prosegue la Dance Hall con Il Generale di nuovo e Mark One e Supaghi. Invece, questo per quanto riguarda il fine settimana, ma invece la settimana prosegue e, surprise, concertino al Next Emerson martedì 14 novembre, concerto di martedì, quindi mi raccomando si inizia presto e si finisce presto, e lo Smash Sound Collective, un nuovo collettivo nato da veramente poco, presenta White Dog Suicide dalla Svizzera e Die Kellerratten dalla Germania, concertino di due gruppi giovanissimi a dire il vero che vi consiglio di sperimentare. Questo quanto ci dice l'agenda del Wombat, e proseguendo lungo la nostra scaletta che ormai è giunta praticamente alla fine, ci mancano soltanto due pezzi, il prossimo dei quali è Bill Monroe, Blue Moon of Kentucky, Blue Moon of Kentucky molto più famosa in altre versioni, ma l'originale è proprio scritta da Bill Monroe, scritta nel 1946 e pubblicata poi all'inizio del 47 con la Columbia Records. È un valzer, almeno in origine, un valzer bluegrass, proprio chiamato così. Il gruppo di Bill Monroe era un famosissimo gruppo bluegrass, un po' quello che hanno dato più lustro al genere. Ebbe un successo piuttosto importante a livello nazionale, fu proprio la hit dell'anno, e poi però in realtà divenne veramente famosa grazie alle versioni successive, tra cui forse la più famosa, quella di Elvis Presley, registrata pochi giorni dopo That's Alright Mama, quindi poco dopo il primo singolo in assoluto registrato da un giovanissimo Elvis. Questa session in cui registrò, session della Sun, la Sun Records, di cui abbiamo fra l'altro anche qui parlato abbondantemente in un'altra puntata dedicata proprio alle Sun Session di Elvis Presley. Vi ricordo, andate a vedervi pure questa. Questa esce invece il 19 luglio come B-side proprio appunto di That's Alright Mama e per la Sun Records appunto di Sam Phillips. E sì, in realtà loro avevano registrato con Elvis That's Alright e non riuscivano a trovare una B-side. Allora ci stettero un po' a pensare. Si sta parlando appunto del luglio del 1954. Erano lì che col gruppettino che aiuta, gruppettino poi insomma tra virgolette, perché era un gruppo con i controcazzi, stavano lì a aiutare Elvis. Cosa si fa, cosa non si fa? Ogni pezzo che provavano sembrava un po' morire poco dopo, non tornava. E alla fine il contrabbassista Bill Black fu quello che arrivò con Blue Moon of Kentucky, un po' buttandola lì, ma perché proviamo a fare questa? Dopo una pausa, e si mise lì, sonicchiò e strimpellò il basso con questa Blue Moon of Kentucky, un po' cantandola in falsetto, facendo un po' il verso a Bill Monroe. E Elvis si unì e da lì ne venne fuori poi questo brano strafamoso ormai, tra l'altro trasformato dal lento valzer, che era poi la versione originale di Bill Monroe, trasformata in un ben più allegro e ben più blues in quattro quarti. E quindi ci ascoltiamo però, in questo caso, perché Elvis ve l'ho già fatto sentire la versione che ha fatto, vi faccio ascoltare l'originale, Bill Monroe e Doc Watson, Blue Moon of Kentucky. Keep on shining, shining on the one that's gone and proved and true. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shining on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars shining bright, and they whispered from on high, your lover said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and said goodbye. Of Kentucky, versione originale di Bill Monroe. E adesso ultimo pezzo con cui vi lascio andare a dormire, vi do la buonanotte sotto questa luna piena. È un pezzo di quelli famosi, di quelli classici, di quelli anche banali, che ovviamente avrei dovuto far sentire parlando di Luna. Ve l'ho anticipato all'inizio, non avrei messo banalità e questa sì, me la concedo, ma d'altra parte ho un legame un po' sentimentale con questo pezzo dei King Crimson. Moonchild, ovviamente, l'album è In the Court of the Crimson King del 1969 e Moonchild è il figlio della luna, è un po' il riflesso che la luna lascia sull'acqua, sulle foglie di un salice, in una fontana, sui fiori e varie immagini che la luna regala alla terra. Ma oltre al significato della canzone, che poi potremmo starne a disquisire per anni, probabilmente dicendo anche cose piuttosto insensate, è interessante anche uno degli strumenti che ascolterete dentro questa Moonchild, che è il mellotron. Il mellotron è un tastierone che è vintage, veramente vintage, che ha un funzionamento un po' simile a quello di un sampler, sintetizzatore sostanzialmente, che genera i suoni però tramite dei nastri registrati. Quando viene premuto un tasto, il nastro collegato viene spinto sulla testina di riproduzione, un po' come succede nei registratori a nastro, nei mangianastri, quelli che vi dicevo prima. Finché il tasto resta abbassato, quindi bisogna tenerlo premuto, il nastro scorre sulla testina e il suono viene riprodotto. Quando invece si lascia andare il tasto, la molla fa ritornare indietro il nastro e alla posizione di riposo originaria e quindi si stoppa il play. Su questo strumento è disponibile una grande varietà di suoni. Nei primi modelli c'era sostanzialmente una ripartizione tra le sezioni ritmiche e le sezioni soliste e poi dopo nei modelli successivi del mellotron questa ripartizione viene un po' superata. C'è questo telaietto che contiene questi nastri che è progettato per poter essere rimosso e sostituito con altri suoni, quindi era una cosa anche piuttosto innovativa per l'epoca. Ricordiamo che non eravamo nell'era digitale, insomma, tutt'altro, siamo nel 69. La durata del campione era di 8 secondi. Terminato questo segmento di nastro di cui parlavamo prima, bisognava appunto lasciare andare il dito e poi ripremerlo se volevamo rimandare in play. In questa frazione di secondo la molla riavvolgeva appunto il nastro e lo riposizionava al punto di partenza. Questo era il mellotron, ve lo ascolterete e lo riconoscerete, abbastanza riconoscibile. Dedico questo pezzo di chiusura a Prog 1 e Prog 54, che so lo apprezzeranno parecchio, in particolare Prog 1, giuro che non sbaglierò mai più a indovinare di chi è la copertina di questo disco, lo giuro, un errore imperdonabile, non lo rifarò mai più. E poi lo dedico anche a il bellissimo e meraviglioso gatto guerriero Gogol, che ci ha lasciato la settimana scorsa, gatto che probabilmente avevo sulle mie ginocchia la prima volta che ho ascoltato questo pezzo, ne sono abbastanza sicura perché mi ricordo molto bene di averlo ascoltato per la prima volta al Cecco Rivolta e penso che quindi di sicuro avrò avuto in braccio il bellissimo gatto Gogol. Questo è quanto. Moonchild, King Crimson, Slick Chick vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre mercoledì intorno alle 21, sempre su Radio Wombat. Ciao ciao! Child, seek with the good.